Prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas. Con questa puntata chiudiamo il percorso annuale della rubrica realizzata in collaborazione con la Caritas di Padova e, come annunciato, chiudiamo con un ulteriore approfondimento sul progetto annunciato dal Vescovo Claudio al giorno della festa di Sant'Antonio, i cantieri di carità e giustizia. Un progetto che la Diocesi di Padova realizzerà con la Fondazione Manuela Zancan e che si svilupperà in tre tappe che guarderanno rispettivamente al passato per recuperare e avere ben presente la tradizione di carità e solidarietà che vanta una storia secolare fin proprio dai tempi di Sant'Antonio, al presente, seconda tappa, nell'obiettivo di mappare ciò che esiste, le realtà impegnate nel sostegno e nella cura dei diversi disagi e il senso comunitario del prendersi cura dei diversi contesti. Un progetto, specifichiamo, che vale solo per la città di Padova e non per l'intera diocesi. Terza tappa, guardare al futuro, nell'obiettivo di sviluppare delle pratiche condivise a corrispettivo sociale, nell'intento di trovare forme di lotta alla povertà da realizzare con i poveri stessi che ne sono protagonisti. In occasione della conferenza stampa la scorsa settimana è stato anche diffuso un fascicoletto, appunto, che riporta già, oltre al messaggio del Vescovo del giorno di Sant'Antonio, un piccolo panorama della storia delle radici di carità e giustizia a Padova, arrivando appunto fino al XIII secolo, quando a Padova arrivò frate Antonio dal Portogallo, e poi il secolo del 400 con la posa della prima pietra dell'ospedale San Francesco, il 600 la presenza del Vescovo Gregorio Barbarigo, il 700 col Vescovo Giustiniani, e poi anche il XIX secolo con l'attenzione caratterizzata per la diocesi di Padova da una serie di attività apostoliche, assistenziali, economiche e sociali, e poi il Vescovo Bortignon per il XX secolo, in particolare con l'apertura dell'OPSA, l'opera della Provvidenza Sant'Antonio, e anche l'iniziativa del QAM. Tre tappe, come dicevamo, per questo progetto Cantieri di Carità e Giustizia. L'approfondiamo con due ospiti, a cominciare dal vicario episcopale per il territorio, Don Marco Cagol. Sì, allora le tre tappe vogliono partire proprio da un momento di ricognizione di tipo storico, ecco. Verrà rivolto un invito a tutte le realtà che hanno attività dal punto di vista caritativo da almeno da più di 50 anni, a raccontare la loro storia di opere di carità che si sono trasformate in strutture di giustizia, che quindi hanno generato una trasformazione all'interno della società, della città. Ecco, poi, e quindi in questi giorni, insomma, ci stiamo attrezzando per coinvolgere queste realtà che sono soprattutto religiose, perché evidentemente sono quelle che hanno la storia più lunga dal punto di vista di questi temi, ma anche altre istituzioni che possono avere una storia lunga da questo punto di vista qua. Quindi questa è la prima di questi giorni. Poi ci sarà la seconda, che è quella più, diciamo così, di attualità, nel senso che sarà come dire, la possibilità di costruire una mappa di tutto quello che oggi viene fatto per i poveri, per coloro che sono più poveri all'interno della città, una mappa che abbia una sua visualizzazione anche proprio geografica, ma anche in termini di tipologie di azioni che vengono svolte, e poi per poi approdare un terzo momento, che è quello di, appunto, aprire tra virgolette il cantiere vero e proprio, che è quello di provare a innovare, a mettere in campo azioni diversificate e che, come dire, rispondono anche a una logica, diciamo così, innovativa dal punto di vista della relazione con i poveri, dell'aiuto ai poveri, che quasi sembra apparentemente ribaltare, cioè che cosa puoi fare tu per aiutarti e per aiutarci ad aiutarti. Ecco, questa è un po' la domanda, il punto più innovativo di innovazione, ecco. Ovviamente questo progetto si inserisce in un solco ricco della storia della città di Padova, non è che si parte da zero, però qui c'è la volontà proprio del Vescovo Claudio di, come dire, di richiamare più soggetti e realtà possibili a porsi la domanda, a guardare, potremmo dire così, a guardare la realtà della città dal punto di vista dei poveri, di coloro che sono più poveri, e proprio collocarsi in un punto di vista diverso. L'appello evidentemente è prima di tutto rivolto alla Chiesa e alle realtà ecclesiali, ma vuole coinvolgere tutta la città, tutte le istituzioni della città. Con Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan, possiamo definirvi il braccio operativo di questo progetto? Beh, siamo a servizio proprio di questo progetto, è cantiere di carità e giustizia, è una grande opera sociale e proprio in questo pensarlo proprio come cantiere, grande opera, abbiamo anche pensato a soluzioni per valorizzare le capacità di chi si trova in difficoltà, di quelli che normalmente vengono definiti poveri, però le povertà sono di tanti tipi e c'è tanta dignità, tanta anche orgoglio nelle persone che vogliono mettere a restituzione sociale, a dividendo sociale, e quindi l'idea è di dire agli aiutati di aiutare, perché questo è il modo migliore, ecco, di riconoscere la dignità ad ogni persona. In questi giorni, appunto, la prima tappa che vi vedrà protagonisti nel sondare proprio il terreno. Sì, lo sonderemo in diversi modi, intanto per riconoscere la storia di carità e giustizia di Padova, è una storia incredibile e già poterla conoscere darà molto anche entusiasmo, molta voglia di fare a chi si sentirà di farsi ingaggiare in questo cantiere, e poi vedremo tutte le capacità attuali a disposizione, vedremo i vuoti ovviamente di intervento e anche le sovrapposizioni. Questo non solo per dare, come dire, visibilità a tutto quello che è solidarietà, carità e giustizia a Padova, ma anche per in qualche modo finalizzare meglio nelle azioni a dividendo sociale, a corrispettivo sociale, e quindi ogni aiutato sarà in qualche modo ingaggiato in questo. Non posso aiutarti senza di te, quindi quello che ricevi non è solo per te, ma è per te e per gli altri. È quello che voi da anni definite il welfare generativo. È generativo proprio in questo senso, perché quello che danno gli altri, tra virgolette i poveri, non costa nulla perché lo donano loro, lo mettono loro a disposizione. In questo senso è generativo. Sarà anche prossimamente attivato il sito internet Carità e Giustizia, che darà conto proprio di questo percorso. La prima tappa si svolge proprio in questi giorni, entro il 19 luglio saranno incontrati i referenti delle varie realtà per illustrare il progetto nello specifico, e sarà realizzato un dossier che in modo semplice, pratico e simbolico rappresenti le esperienze, i carismi e le testimonianze. La seconda tappa si svilupperà nel corso delle estate. Il 19 settembre è previsto l'incontro con chi ha aderito al progetto tramite l'adesione online, appunto proprio tramite questo portale caritaegiustizia.it. Sarà realizzata una mappa georeferenziata che evidenzierà appunto i luoghi e le iniziative che già si prendono cura nei diversi contesti, ma anche i vuoti da colmare. La terza tappa poi sarà quella successiva, a partire dall'autunno, sulla base delle adesioni al progetto, per individuare e attivare le azioni realizzate non solo per i poveri, ma dai poveri con i poveri stessi. Ringraziamo la chiusura di questo percorso, la Caritas di Padova, nella persona del suo direttore Don Luca Facco, e tutti i suoi collaboratori che in misura, in modi e in tempi diversi hanno contribuito anche quest'anno alla realizzazione di questa rubrica settimanale, che contiamo possa tornare migliorata e potenziata anche con la prossima stagione. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.